Voglio il mare di Valencia, ritornare alla partenza. Voglio indietro la mia mamma e un'antica ninna nanna, e giocare coi cugini, noi insieme così vivi. Voglio l'Eros della Spagna, allocarlo in una stanza e giocare. Sono ancora tutte sveglie e le foglie che ho raccolto mi sussurrano un racconto, e le immagini di donne, Paola e Chiara, Turman Lopez. Meraviglia, adesso dormo, meraviglia, adesso sogno, sogno. Dalla luna io mi lascio trasportare, dalla palanco la finestra, metto la mia testa fuori, la purezza dell'inverno mi riempie i polmoni. Una pioggia leggerissima mescolata con la neve accarezza la mia faccia, io mi sento così bene. Una pioggia leggerissima mescolata con la neve accarezza la mia faccia, io mi sento così bene. Scena, sono in strada, sento l'aria quasi calda, che sorpresa, qui vicino c'è la mia vera casa, è una bianca tonda torre che si innalza oltre un cancello, ha una scala elicoidale che gli sale tutt'attorno. Discostata scopre un vano, una cucina, c'è una mensa apparecchiata, sto qui in alto con fatina, qualche cosa cuoce piano, sì è il cibo che più amo. Mamma è scesa in cantina, c'è un tesoro in cantina. Dalla luna mia, che in me.